Bene, allora, questa sera, tenendo presente che la guerra in Ucraina prosegue e che la propaganda ci racconta di conquiste che non conquistano, di avanzate che non avanzano, mentre persone, sia tra i civili che i militari, muoiono, spostiamo la nostra attenzione nell'area medio orientale. Pensiamo di parlare di Israele perché anche questo alleato degli Stati Uniti e gendarme dell'area vive una fase di contraddizioni che hanno visto per mesi manifestazioni contro il governo di estrema destra. Un governo che per la prima volta ha fatto invadere dalla polizia israeliana la moschea a Gerusalemme. Un governo, espressione armata del sionismo e senza più avversari dopo la polverizzazione della Siria, un governo che potrebbe innalzare la strisciante situazione di guerra civile. In questa ipotesi, in questo quadro, l'ipotesi ormai incancrenita di due popoli, due stati, si dissolve. Alla gioventù palestinese spetta il compito di porsi nuovi obiettivi per il futuro. Adesso lascio la parola perché poi abbiamo anche due interviste, un collegamento in diretta con un compagno palestinese e un'intervista a Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto a Gerusalemme. Allora, io sono qui per introdurre, ovviamente cercherò di essere breve, ma le questioni sono numerose. Parto da un fatto che è successo 5 anni fa, ma che è importante, e cioè che il 18 luglio del 2018 il Parlamento israeliano, sotto il governo Netanyahu, ma non ha importanza questo fatto, il Parlamento israeliano ha promulgato la 14ª legge fondamentale del paese, una legge cioè di valore quasi costituzionale, in Israele non c'è una Costituzione. Questa legge proclama, e qui leggo, Israele Stato-nazione del popolo ebraico, con Gerusalemme, capitale unica, indivisibile ed eterna. Sulla base di questa legge, solo gli ebrei, e non solo gli ebrei israeliani, ma questo si vedrà in seguito, hanno l'autodeterminazione per decidere e guidare Israele, mentre chi non è ebreo non l'ha, quindi sia gli arabi cosiddetti israeliani, i palestinesi che vivono nei confini di Israele e hanno la cittadinanza, sia i cristiani o gli addetti di altre religioni. Si tratta della conclusione etnica-religiosa della parabola del sionismo, iniziata 120 anni prima, che è nata come ideologia e come movimento nazionalista, etnico, nel quadro dell'imperialismo di quell'epoca, del fine 800, inizio 900, che quindi pretendeva e poteva pensare di colonizzare delle terre nel quadro del dominio allora della potenza inglese, dell'imperialismo britannico. Formatosi lo Stato di Israele nel 48, dopo i fatti terribili dello sterminio, ma si sarebbe formato secondo me lo stesso, lo Stato di Israele nel 48 ha avuto poi l'appoggio ed è stato un pilastro della presenza del dominio americano sul Medio Oriente. E alla fine del secolo scorso, inizio di questo secolo, Israele ha sviluppato una propria polizia è sempre stata autonoma entro certi limiti, ma ha sviluppato una propria autonoma politica imperialistica, non solo di dominio sul popolo palestinese, ma di predominio nel teatro euro-mediterraneo e del Medio Oriente. Israele esporta capitali più di quanto ne importi, ha una sviluppata industria tecnologico-militare, una delle più sviluppate al mondo, e ha rapporti da pari a pari con molte delle potenze del Medio Oriente e del Mediterraneo, tra cui l'Italia, a cui dedicheremo una piccola parte. Quindi questa legge è la consacrazione del sionismo del XXI secolo, cioè di una ideologia nazionalista, suprematista etnica, che, abbandonati i paramenti laico-socialisti della costruzione dello Stato fino agli anni 50, si è messa le divise della religione e è approdata a una teoria che vede non solo la supremazia etnica degli ebrei, del popolo ebraico, ammesso che esista un popolo ebraico, ma sui palestinesi, sui colonizzati, ma una supremazia tecnologica come punto finale della civilizzazione superiore. È una supremazia religiosa, perché questo è uno Stato non teocratico, ma che usa la religione per l'affermazione della propria politica. Detto questo, si capisce cosa sia il destino attuale dei palestinesi, che è molto peggiore di quanto avvenuto 75 anni fa. Proprio 75 anni fa è stato costituito lo Stato di Israele. È molto peggiore di quanto avvenuto con la guerra dei sei giorni e l'occupazione della Cisgiordania e di Gaza, oltre che del Golan siriano, e pone dei problemi di sopravvivenza di quel popolo, a mio parere. Quindi l'oppressione in questi 56 anni e soprattutto negli ultimi 30 anni è diventata molto molto più invasiva, molto molto più oppressiva. Si vive male, si vive sempre peggio nella Palestina, nella Cisgiordania occupata, si vive malissimo in Gaza recintata e trattata come una prigione a cielo aperto, ma si vive sempre peggio anche per discriminazione razziale, tra virgolette, uso questa parola, ma ovviamente tra virgolette, discriminazione sociale in Israele per chi è arabo-israeliano. Questa situazione ha portato nel 2021 a un fatto che non era successo con quelle proporzioni in passato. Noi abbiamo visto che nel 2021, cioè due anni fa, proprio durante aprile e maggio, durante il Ramadan e la Pasqua ebraica, abbiamo avuto una rivolta della gioventù araba israeliana a Gerusalemme. Ci sono stati degli scontri micidiali davanti alla moschea e credo che anche allora la polizia sia entrata in Al-Aqsa durante il Ramadan. Ci sono stati degli scontri tra la gioventù di Gerusalemme, che non erano i primi, c'erano state diverse tensioni negli anni precedenti, quantomeno dal 2014 in avanti, tra giovani palestinesi, israeliani e polizia o apparato del municipio di Gerusalemme. E questa rivolta si è estesa però a tutte le città cosiddette miste, cioè dove abitano sia arabi sia israeliani, per dirla, c'è la città di Lod, la città di Haifa, la città di Acri e altre importanti città come Nazareth. E questo fatto ha scosso il dominio dello Stato israeliano e ha messo di fronte Israele, il potere israeliano, la borghesia israeliana, alla realtà cruda creata da questo potere, cioè un'economia iperliberista, iperconcentrata nella ricchezza e nel dominio della ricchezza. Ci sono circa 18 gruppi bancari, industriali, familiari che hanno quasi il 60% del controllo dei capitali esistenti in Israele. Una società in cui chi lavora e lavora quando non c'è praticamente un'alta disoccupazione in Israele, ma i salari sono bassissimi e la vita è carissima, perché è stato negli ultimi 30 anni, soprattutto per opera del ministro delle finanze del 95, cioè un certo Netanyahu, e poi del primo ministro Netanyahu e dei suoi governi, e la politica di Netanyahu è stata continuata durante i governi cosiddetti di centro-sinistra o con le alleanze tra cosiddetta destra e cosiddetta sinistra, è stata una politica iperliberista che ha eliminato molti dei servizi sociali e che soprattutto ha garantito un basso salario per la massa e un alto profitto e alte rendite. Provate a comprare una casa in Israele, in certe città, e troverete gli stessi prezzi di Milano. Il reddito nazionale israeliano è cresciuto enormemente, ma si è concentrato in modo estremamente diseguale. Questa diseguaglianza, che interessa tutte le strati dei lavoratori, ebrei, tra virgolette, e arabi, tra virgolette, o musulmani, interessa particolarmente la parte araba della popolazione che vive in Alta Galilea o in città, soprattutto nella parte nord o anche in alcune città del sud, che non hanno servizi, non hanno strade in alcuni casi, hanno poche scuole, e quindi la popolazione arabo-israeliana ha una mortalità infantile doppia rispetto a quella israeliana. Finisce gli studi a 14 anni e non prosegue dopo. E di conseguenza, malgrado una parte della popolazione araba si giunga all'università o abbia dei commerci, dei ristoranti o altro, la massa della popolazione è in una situazione di estrema difficoltà. La rivolta di Gerusalemme riflette questa situazione, ma la rivolta delle altre città è stato un campanello d'allarme terribile per il governo israeliano. Detto questo, questa situazione sociale si è sviluppata anche nel quadro di una situazione politica di crisi. In Israele ci sono state, se non sbaglio, 5 elezioni in meno di 4 anni. E queste elezioni, a parte l'ultima apparentemente, hanno sempre mantenuto una situazione di equilibrio tra i partiti stretti attorno alla cosiddetta destra di Netanyahu, il Likud, il partito di Netanyahu, e i partiti religiosi, sia cosiddetto sefardita sia quello, virgolette, ashkenazita, gli ortodossi, e i partiti di centro e quello che rimane del partito laburista e che praticamente è stato annichilito. Questa situazione di crisi politica permanente sembrava aver avuto uno sbocco nelle elezioni che si sono tenute il primo novembre. Il primo novembre la destra e l'estrema destra israeliana, cioè il partito Likud di Netanyahu e i partiti della coalizione, il partito sionista religioso, che è una coalizione tra due partiti di stampo fascista, uno che si chiama addirittura Forza Ebraica, Otzma Yehudit, potenza ebraica o potere ebraico, di un certo Itamar Ben-Gvir, che è un seguace, non faccio la storia di questo personaggio, ma è interessante, è un seguace di un partito vero e proprio fascista che fu addirittura sciolto negli anni Ottanta, il partito Kach, vuol dire pugno, del cosiddetto rabbino Kahane, che, di cui Ben-Gvir era giovanissimo militante. E poi un altro partito che è retto da un certo Bezalel Smotrich, che ha una caratteristica più religiosa, ma di estrema destra. Il Parlamento, che è uscito il primo novembre, non vede la sinistra, non c'è un elemento di sinistra, o forse pochissimi. Il partito sionista, socialista, che esprimeva una posizione più aperta verso i palestinesi, il Meretz, non è riuscito a superare lo sbarramento del 3,25% per poche migliaia di voti. I partiti arabi, a loro volta, hanno avuto dei voti, ma essendosi divisi non hanno avuto delle rappresentanze quali avrebbero avuto in altri casi. E abbiamo questo governo di estrema destra. Ma è un governo, questo, che non è una novità, è l'espressione più moderna, più attuale del sionismo. E non bisogna fermarsi al fatto che in Israele non ci possono essere dei fascisti, perché nella storia del sionismo abbiamo tutte le tendenze politiche, un apparente socialismo, che in realtà non lo era, perché era un socialismo nazionalista e antipalestinese, un socialismo colonizzatore, che era quello del partito laburista dell'inizio. Abbiamo anche avuto dei partiti che si sono abbeverati e sono stati finanziati da Mussolini ai tempi, il partito appunto di Jabotinsky, che era un vero e proprio partito fascista e che ha l'origine di tendenze politiche ancora presenti in Israele, per cui non c'è da stupirsi. Questa vittoria però rappresenta un segnale di quello che Israele pensa, o quello che la destra israeliana, quello che il potere attuale israeliano pensa di poter fare in un momento interno e internazionale estremamente teso. Questo partito, questo governo si è presentato con un programma di legislazione di cui si punta qui in Italia soprattutto a mettere in luce la cosiddetta riforma giudiziaria, cioè il governo Netanyahu Ben-Gvir, il governo della destra e dell'estrema destra, si propone, uno, di ridurre i poteri della Corte Suprema, una specie di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale che stanno insieme, di incidere con l'interpretazione delle leggi sulla rispondenza di queste leggi alla democrazia ebraica, alla, diciamo, ai diritti, virgolette, sanciti dalle leggi fondamentali. La Corte Suprema aveva questo potere da ormai 30 anni, ma il governo vuole affermare un'altra via, cioè la Corte Suprema deve giudicare secondo legge, ma se la legge non piace al governo o se la legge interpretata dalla Corte Suprema non va al governo, il governo può disattendere la sentenza e proporre una legge ancora contraria a ciò che dice la Corte Costituzionale, cioè praticamente esecutivo in testa, giudici ad eseguire ciò che decide l'esecutivo. Questa significherebbe la fine della cosiddetta tripartizione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e quindi la fine della democrazia. Ammesso che in Israele esista una democrazia, perché non esiste una democrazia laddove vi è l'occupazione e l'oppressione di un altro popolo, ma su questo torniamo. Ma ciò che conta non è questa legge, è ciò che Netanyahu ha proposto e i suoi alleati propongono con altre leggi, ancora peggiori. Praticamente, primo, propongono una legge, proposta il 25 marzo del 23, cosiddetta legge transitoria che consente alla polizia di entrare in qualsiasi casa alla ricerca di armi e di arrestare, senza comunicazione alla magistratura. Questa legge dà i pieni poteri alla polizia, di cui il ministro responsabile è Itamar Ben-Gvir, cioè il fascista. È come mettere Italo Balbo, per fare un esempio storico, a ministro dell'interno, cioè lo squadrista che diventa ministro dell'interno. Secondo, una legge che vieta le candidature alle elezioni per coloro che propongono il cosiddetto boicottaggio, disinvestimento contro la politica degli israeliani nei territori cosiddetti occupati. Terzo, una legge che propone la pena di morte per gli imputati, la pena di morte per gli imputati condannati per terrorismo che abbiano attentato alla natura ebraica dello Stato. Questa è una legge proposta da Ben-Gvir. Quarto, e questa è bellissima, il permesso per i deputati e gli impiegati governativi e i ministri di ricevere doni da privati. È già passata. Sì, perché c'è un procedimento per... Cioè, praticamente, tu sei ministro, io ti corrompo e tu non vai in prigione, però mi fai piacere. È una legge importante perché... È una legge modernissima che deve essere esportata in tutto il mondo occidentale, in fondo, e anche orientale, ovviamente. Poi, il permesso di ricevere doni dai privati, ma soprattutto doni per le spese di giustizia che questi impiegati debbano affrontare e per le spese mediche sue e della famiglia. Cioè, Poi c'è un'altra legge che è in via di approvazione che garantisce alle corti rabbiniche che hanno già la giurisdizione esclusiva sul diritto delle persone, perché in Israele non ci si può sposare se non davanti al rabbino o davanti al prete o davanti all'imam, e non ci si può divorziare se non davanti a loro. Oltre a questa decisione, oltre a questa giurisdizione, vogliono dare ai rabbini il potere di decidere nelle cause civili. Questa legge viene proposta soprattutto dalle formazioni cosiddette religiose, perché i rabbini avrebbero da questa legge non solo più potere, ma soprattutto più denaro. Pensate a quello che guadagnerebbero, ammesso che abbiano competenza legale, perché in Israele c'è anche un po' di polemica sulla competenza legale dei rabbini, sulla loro preparazione. Notare che in pratica si creerebbe un sistema giudiziario civile parallelo a quello dello Stato. Poi c'è una legge che vieta che i prodotti lievitati entrino negli ospedali a Pasqua. Non sto a spiegare perché e per come. Vi sono poi altri provvedimenti terribili, quali i pieni poteri a un super ortodosso per decidere se un libro debba entrare a scuola o meno, cioè un sussidiario, un libro di testo, e poi altre questioni del genere. E la solita questione dell'aumento delle sovvenzioni dello Stato alle scuole alle cosiddette yeshivot, le scuole religiose, in cui non si studiano di solito grandi materie di matematica, scienze, inglese, eccetera, ma soprattutto il Talmud e la Torah. Detto questo, abbiamo la formazione di uno Stato apparentemente teocratico, ma in realtà decisivo, perché solo chi è ebreo, secondo questa gente, può avere potere nello Stato, gli altri no. Quindi è proprio la terminazione del sionismo, cioè l'approdo del sionismo. Ma perché avviene in questo momento? Avviene in questo momento perché Israele ha ottenuto negli anni precedenti di fare gli accordi di Abramo con i petromonarchi degli Emirati Arabi Uniti, si stava preparando addirittura con l'Arabia Saudita, con il Marocco, che hanno dato sotto l'egida degli Stati Uniti a Israele un'enorme tranquillità nel quadro medio orientale, non solo militare, ma anche di investimenti. Gli Emirati Arabi Uniti non aspettavano altro che di investire in Israele e di avere investimenti di Israele nella loro terra. Vogliono anche commerciare con Israele armi, e da tempo lo fanno. Vogliono i turisti israeliani e vogliono poter andare a Gerusalemme. Ma naturalmente Israele pensava anche che attraverso questo accordo e queste leggi di avere la vittoria definitiva sul popolo palestinese che sia esso in Israele, sia esso nei territori cosiddetti occupati, è in rivolta. Ma non ha a chi rivolgersi tra i vecchi alleati, gli stati arabi, che sono uno più reazionario dell'altro e hanno già calpestato i diritti dei palestinesi. Contro queste leggi c'è stata una rivolta. Dal 10 di gennaio a fine marzo, ogni sabato e anche dopo, in aprile, ci sono state manifestazioni oceaniche contro la legge che riforma il sistema giudiziario. Una parte enorme della popolazione israeliana è scesa in piazza. Quando in Israele scendono in piazza 300 o 500 mila persone in tutto il paese, o 300 mila a Tel Aviv, è come se qui in Italia ne scendessero in piazza 5 milioni. Tanto per dirvi, bastò 1 milione a Roma nel 1994, manifestazioni sulle pensioni, a far cadere il governo Berlusconi. Ma il governo Netanyahu non è caduto. Queste manifestazioni oceaniche sono partite per la crisi sociale che c'è in Israele. Sono partite perché Israele è in crisi permanente per il suo rapporto con i territori occupati. Sono partite anche per iniziativa di forze non parlamentari o comunque che proponevano un accordo tra israeliani e palestinesi, sia all'interno di Israele sia verso la Cisgiordania. Il gruppo, per esempio, Stand Together, o altri gruppi cosiddetti di elementi sefarditi o Mizrahim, cioè non ashkenaziti, non elementi di potere, che sono scesi in piazza contro il governo Netanyahu, ma subito sono stati raggiunti, superati, circondati da un'enorme massa di popolazione legata ai partiti tradizionali che stanno in Parlamento. E queste manifestazioni hanno avuto tutte una caratteristica dopo le prime, e cioè si doveva parlare soltanto della difesa della democrazia, del blocco della legge che riforma il sistema giudiziario. Non si doveva parlare di uguali diritti per i palestinesi dei territori occupati. Non si dovevano portare delle bandiere, anche se ovviamente sono state portate, palestinesi in piazza. Queste manifestazioni, quindi, hanno visto la ripresa di una lotta di potere al vertice della borghesia israeliana, che non è tutta d'accordo con Netanyahu. E a queste manifestazioni, cosa importante, non hanno partecipato, se non in piccola parte, arabi israeliani, che sono scesi in piazza ma non in modo massiccio, né di queste manifestazioni hanno dato importanza i palestinesi. Perché? perché tra le due ali della borghesia israeliana non c'è molta differenza rispetto ai palestinesi. Se tu dici io difendo la democrazia per gli ebrei e me ne fotto delle occupazioni, dei territori occupati, della differenza e della discriminazione anti-araba in Israele, nei confini di Israele, è logico che non difendi una vera democrazia, difendi alcuni interessi ben precisi, per cui molti elementi del vecchio potere militare o giudiziario addirittura hanno incitato a scendere in piazza, la presidente della Corte Suprema e la procuratrice generale della Corte Suprema. È come se in Italia il presidente della Corte di Cassazione scendesse in piazza paludato con l'ermellino dicendo andiamo a difendere la democrazia, ma ve lo vedete. Non è che quelli siano dei democratici, lo sappiamo benissimo cos'è la Corte di Cassazione italiana o cos'è la Corte Costituzionale, basta vedere la sentenza che hanno fatto la Corte Costituzionale sulla questione dei vaccini. Vabbè, detto questo, di fronte a due tendenze del potere israeliano, di fronte a due tendenze del potere sionista, di fronte all'esercito, ai generali dell'esercito, ai generali dei servizi segreti, che hanno per anni, per decenni, fatto carriera sulla tortura, sulla occupazione militare, sulla distruzione delle case, sulle iniziative di terrorismo nei territori occupati, sulle guerre e sui bombardamenti a Gaza o in Siria, di fronte a questo è logico che i palestinesi non abbiano nessun interesse né di qua né di là, perché di fatto mentre c'erano queste manifestazioni l'occupazione andava avanti come prima e più di prima. Vi ho detto che la crisi sociale ed economica del territorio palestinese nel 2022 è aumentata a tal livello che l'esercito, sotto il governo precedente a quello di Netanyahu, ha lanciato delle operazioni militari permanenti nelle città di Nablus, di Jenin e di altri, e ha fatto nel 2022 più di 200 morti in queste azioni, 200 morti, a parte la solita guerra a Gaza, 200 morti e centinaia di feriti. Hanno continuato a distruggere le case dei cosiddetti terroristi. Di conseguenza, per i territori occupati, non c'è differenza tra il governo precedente, cosiddetto democratico, e il governo fascista attuale. Di più. A parte questo, a parte la solita manovra della polizia a Gerusalemme in aprile, che è entrata nella moschea di Al-Aqsa e ha scatenato una nuova rivolta, ricordiamoci una cosa: in Siria c'è stato un terremoto devastante il 6 febbraio. Due settimane dopo, Israele ha bombardato due aeroporti dove arrivavano col contagocce gli aiuti o le riserve per i terremotati siriani. Cioè Israele ha continuato a fare esattamente quello che faceva prima. E su questo pochi manifestanti hanno protestato. Finisco dicendo che non è un caso che la politica israeliana stia andando a destra estrema. Israele pensava di aver raggiunto un porto sicuro sotto alla presidenza Trump con gli accordi di Abramo con i paesi arabi del petrolio, aveva già un accordo con l'Egitto, aveva un accordo con la Giordania, e quindi di avere una garanzia della sua presenza di potenza medio orientale e mediterranea. La guerra ucraina e gli avvenimenti sociali e militari di tutto il Medio Oriente hanno scosso, rovesciato questa situazione. Non c'è paese del Medio Oriente confinante con Israele che non abbia una situazione sociale di rivolta. Non, Libano, rivolta del 2019. Giordania, dal 2018 in protesta, con movimenti nazionali contro il carovita che fanno spavento al potere. Egitto, una bomba ad orologeria, perché l'Egitto è alla miseria nera e il potere militare non è più sorretto dall'enorme flusso di fondi che vengono dagli stati del petrolio. Turchia, inflazione all'80%, terremoti, eccetera, il potere di Erdogan che vacilla. Questo solo per i confinanti con Israele o con i vicini di Israele, la Siria che è ridotta a un cimitero. Poi attorno a Israele il nemico iraniano che è scosso dalla grande rivolta o rivoluzione dei giovani e delle donne. Quindi c'è una situazione di assoluta incertezza. E Israele, col governo Netanyahu, si chiude a fortezza ed è pronta ad attaccare. Qual è la prospettiva? La prospettiva è che il Medio Oriente, il Mediterraneo, è nell'arco delle guerre di cui abbiamo trattato, Ucraina, Azerbaigian, eccetera, Siria, nel quadro dello sviluppo di una vera e propria guerra mondiale. Israele può sopravvivere e vuole sopravvivere ed espandersi ancora in questa situazione e usa la mano forte, molto più forte di prima, perché è guantata dai fascisti. All'interno di Israele ci si prepara ad un attacco senza precedenti alla popolazione palestinese. Nei territori cosiddetti occupati ci si prepara all'annessione di una parte, era il programma di Netanyahu per le elezioni, di una parte o di tutta la Cisgiordania. Ma l'annessione significa un'altra cosa che non si vede. O lo schiacciamento totale della popolazione palestinese o la sua espulsione. E in un quadro di rivolgimenti di tutto il Medio Oriente, questa prospettiva può essere forse percorsa. Ho finito. Ecco quindi che la crisi israeliana si inserisce in una crisi sociale e politica e militare e bellica interna e internazionale. Il tempo è tiranno, deve entrare. Allora, se ci colleghiamo e poi finirò se del caso. Mohammed Younis è collegato. Si è collegato, diamo la parola e lo presentiamo. È un palestinese, architetto, laureatosi a Milano al Politecnico negli anni Ottanta ed oggi è un insegnante di politiche pubbliche del territorio all'Open University di Tel Aviv. Tu ci senti? Sì. Mi sentite? Sì. Sì, ottimo. Buonasera amici, io sono felice di essere con voi da Haifa, sullo schermo di via Conchetta. Mi fa piacere vedere che le vicende del Medio Oriente interessano ancora l'opinione pubblica a Milano e in Italia. E stasera parlerò più di Israele che dei palestinesi. Di solito quando si parla di Israele si parla più del conflitto arabo-israeliano, dell'occupazione israeliana della Palestina. E questa sera volevo parlare di una questione interna israeliana che ha implicazioni anche sulla popolazione palestinese e la rivoluzione, la riforma giuridica, giudiziaria di cui ha parlato il mio predecessore. Non ho capito chi era perché mi sono collegato un po' più in ritardo. E magari parlerò anche della situazione dei cittadini palestinesi nello Stato di Israele. E di questa riforma si parla da molti anni, si è iniziato a parlare con insistenza dall'inizio del, grosso modo dal 2011, si è parlato anche prima, però con insistenza dal quasi 12 anni, 13 anni, da quando Netanyahu è tornato al potere, che si parla di una riforma. Però prima di menzionare alcune cose che riguardano la riforma, vorrei parlare anche della situazione costituzionale di Israele. Israele non ha una costituzione. Quando è stato fondato lo Stato di Israele, sono state create istituzioni temporanee, tipo governo temporaneo, parlamento temporaneo, e al pubblico, alla cittadinanza di Israele è stato promesso che entro 6 mesi ci sarebbero state elezioni in conformità con una costituzione che sarebbe stata adottata. E non è successo niente di tutto ciò, tuttora non c'è una costituzione. I partiti, gli ebrei religiosi, oltre ortodossi e religiosi nazionali, riconoscono solo la costruzione di Dio, la legge ebraica, la halakha, e quindi erano contrari all'introduzione di una costituzione liberale, laica, eccetera, eccetera. L'uomo più potente all'epoca, parlo del 48, il primo ministro Ben Gurion, non voleva una costituzione che lo limitasse. I palestinesi dovevano essere deportati e la costituzione lo avrebbe ostacolato, anche se solo a livello formale. Quindi ha insistito per un compromesso. Questo compromesso è conosciuto in Israele come il compromesso di Harare. Un compromesso che dice che invece di una costituzione, come c'è negli stati democratici, verranno proposte delle leggi fondamentali, ogni legge fondamentale sarà una sezione nella futura costituzione. Quando la legislazione di tutte le leggi fondamentali sarà terminata, Israele avrà una costituzione. E questo ha dato soddisfazione a chi voleva una costituzione, visto che c'è una promessa dal Knesset che c'è una decisione della Knesset che sarà una costituzione. Dall'altra parte ha soddisfatto le esigenze di coloro che non volevano una costituzione, in parte sono nel governo in questo momento, perché non era determinata la data di fine della legislazione. Non hanno detto faremo legge fondamentale entro 10 anni, entro 5 anni, entro non so 3 mesi, né era determinato quali sarebbero stati gli oggetti i soggetti delle leggi fondamentali, diritti umani, uguaglianza, eccetera, eccetera. Hanno detto legge fondamentale, non hanno precisato cosa. Quindi Israele è un paese che coopera senza avere una costituzione. Un'altra cosa che come premessa vorrei dire, voglio dire che Israele dopo la fine del mandato britannico in Palestina ha istituito un nuovo ordinamento giuridico. E nonostante le pressioni dei partiti religiosi che sono nel governo attuale, il tribunale rabbinico non è stato riconosciuto come tribunale per procedimenti civili, penali, eccetera, eccetera, ed era limitato a questioni di diritto matrimoniale, stato civile, roba di questo tipo. Il sistema giudiziario israeliano comprende tribunali di tre livelli: tribunale di pace, distrettuale e la corte suprema. E la corte suprema può diventare l'alta corte di giustizia, ed ecco il problema. Il problema è l'alta corte di giustizia, e per questo si fa riforma. In assenza di una costituzione, la magistratura e l'alta corte di giustizia sono diventate l'unico rifugio per associazioni e per cittadini israeliani, e qua non faccio distinzioni tra arabi e palestinesi e ebrei, che chiedono giustizia. Non c'è un altro modo di avere giustizia, solo l'alta corte di giustizia. Le decisioni dell'alta corte sono sempre state attuate. Per esempio, se parliamo delle decisioni della Corte Suprema, l'alta corte di giustizia del 1951 riguardante il ritorno alle loro case degli abitanti dei villaggi palestinesi di Ikret e Berem, allora è ancora impedito di tornare alle loro case, e l'esercito ha persino distrutto le case in modo che la decisione dell'alta corte non fosse attuata. Per dire che in pratica questa riforma magari colpisce l'alta corte di giustizia, però per una parte della popolazione con riforma o senza riforma il valore di questa alta corte di giustizia non si vede tanto. E quindi l'alta corte di giustizia ha un indirizzo per organizzazioni della società civile in Israele e per cittadini singoli. Cosa dice la riforma? La prima cosa che vorrei parlare è l'indipendenza della magistratura israeliana. Per adesso la commissione per la nomina giudici è stata più professionale che politica. I componenti, i membri di questa commissione erano più che altro rappresentanti dell'ordine degli avvocati e rappresentanti della corte giudici della Corte Suprema. C'erano anche deputati e qualche ministro, però la maggioranza era gente che era, rappresentava la parte professionale. Con la riforma, in pratica, la maggioranza del componente saranno rappresentanti del governo e della coalizione governativa. Quindi, perfino nel documento presentato alla Knesset si dice che la legge vuole che siano rappresentate diverse realtà politiche israeliane della Corte Suprema. Vuol dire per esempio, che ci sia un giudice che rappresenta le colonie, un giudice che rappresenta ultra ortodossi, un giudice che rappresenta sfaradite, eccetera, eccetera. Per cui nomina dei giudici che si basa sulla politica e non sui meriti professionali. E la seconda cosa riguarda il ruolo della Corte Suprema, visto che ne avete parlato e quindi io non voglio, volevo parlare su questo, preferisco saltare sulla prossima cosa. Il significato di tutto questo è che la magistratura non sarà indipendente e non avrà l'autorità o l'autorizzazione per criticare e correggere il processo di legislazione, legislazione antidemocratica, in pratica veniva stoppata tramite questa corte, alta corte di giustizia. E questa riforma impedirà la possibilità di rivolgersi alla Corte per stoppare i processi di legislazione antidemocratica. Inoltre, la riforma vuole stabilire che il parere del consulente legale del governo non è vincolante. Per esempio, non è vincolante, è solo una raccomandazione. Per esempio, nel governo di Netanyahu, sia Netanyahu che il ministro Dery ed altre persone sono sotto processo per corruzione e per altre cose. Il consulente legale del governo ha detto al primo ministro che Dery non può... ha dichiarato che Dery non può ricoprire la carica di ministro nel governo di Netanyahu. E voi sapete che senza Dery, nella coalizione di Netanyahu, non ci sarà governo, non c'è più governo. Se il partito di Shas esce fuori dalla coalizione, non c'è più governo. E quindi Netanyahu si sente sotto pressione per questa cosa, e vogliono nella riforma stabilire che il consulente legale può dare dei consigli, però non, il governo non è costretto ad attuare questi consigli. Capite perché la riforma non vuole un parere vincolante, in modo che continuerà ad impiegare, che Netanyahu continuerà ad impiegare ministri sotto procedimenti legali. È chiaro a tutti che Netanyahu è impegnato a sopravvivere nella politica israeliana ed è pronto a tutto per sopravvivere. Per formare coalizione, Netanyahu si è legato con l'estrema destra, seguace di Kahana, come abbiamo sentito poco fa, e loro hanno delle richieste, e qui sta il pericolo principale per la società palestinese. L'estrema destra conosce le difficoltà e la difficile situazione di Netanyahu e ne sta approfittando per approvare diverse cose alla Knesset, e ne menzionerò quei due che riguardano la popolazione palestinese. Abbiamo sentito prima altre cose. Per esempio, Eliyahu Almog, oggi è membro della Knesset, deputato dell'estrema destra, ha fondato una milizia privata per proteggere gli ebrei del sud, nella regione nel Negev, vicino a Beersheba, dai beduini palestinesi. Che vive in Italia so cosa vuol dire squadristi. Ha fatto la sua milizia di squadristi armati, che è l'estrema gente armati, che hanno proprio il permesso di portare armi, che vanno in giro per le strade, hanno anche delle macchine, automobili che sembrano automobili della polizia o vigile o qualcosa del genere, fermano gente civile, beduini, arabi che vivono nel Negev. Queste poverine vedono la macchina che è simile alla macchina della polizia, non capiscono esattamente cosa sia. E lì potete immaginare che esperienza possono passare con queste squadristi. L'estrema destra vuole varare una legge che consenta l'istituzione di milizie per proteggere la popolazione da atti di terrore. Quindi, se questa milizia di Yahya al-Mog, che opera adesso nel Negev, non ha uno status legale molto chiaro, l'estrema destra chiede al governo, perché sa che Netanyahu si trova in una situazione di difficoltà, vuole far passare una legge che consente la creazione di milizie armate. Naturalmente l'intenzione è quella di consentire ai cittadini armati di agire contro i palestinesi. Tutto sarà a norma di legge se questa legge passa. Mi ricordo la guerra civile degli Stati Uniti o altre situazioni che hanno consentito alla gente di portare armi e usarla contro altri cittadini. Un altro atto legislativo che l'estrema destra chiede è il diniego della cittadinanza, di togliere la cittadinanza ad una persona condannata per attività terroristiche o che riceve un'indennità, uno stipendio dall'autorità palestinese. Adesso qualsiasi prigioniero politico palestinese viene chiamato terrorista. Ogni combattente palestinese è un terrorista per quanto riguarda il governo israeliano, e di solito ogni prigioniero liberato dal carcere riceve uno stipendio dall'autorità palestinese per ricostruire la sua vita dopo gli anni di prigionia. Ciò significa che qualsiasi prigioniero palestinese può perdere la cittadinanza ed essere espulso da Haifa, da Nazareth, dall'Alta Galilea, espulso a Gaza o espulso in Cisgiordania. Sono state delle minacce proprio a gennaio, due miei cugini, i famosi Younes, che sono stati liberati dal carcere dopo 40 anni di carcere, e la polizia è entrata nelle nostre case e proprio ha minacciato, se continuiamo a festeggiare la loro scarcerazione, faranno il procedimento per togliere a loro la cittadinanza e espellerle in Cisgiordania. Le leggi dicono che tutti sono innocenti fino a prova contraria. Però Ben-Gvir, che è stato menzionato prima, ministro della sicurezza interna, ministro della polizia, ha ordinato alla polizia di sparare a qualsiasi sospetto palestinese, anche se sono quattro anni. Si è detto anche prima che quasi ogni giorno abbiamo un palestinese ucciso, quasi in maniera sistematica. L'esercito entra a Jenin e Nablus, soprattutto Jenin e Nablus, però anche altre situazioni. Però tutto è stato fatto di nascosto, spesso la notizia non arrivava alla stampa, eccetera eccetera. L'attuale governo afferma di non essere interessato a trattare con i prigionieri palestinesi, E quindi le istruzioni sono di non arrestare le persone, ma di fucilare, di sparare e basta. Una volta c'erano nelle carceri israeliane più di 10.000 prigionieri amministrativi, prigionieri che non hanno ancora visto il giudice. Gente che stava lì da 5 anni, da 6 anni, da 10 anni, senza processo. Israele non è questo governo, non Israele, questo governo non vuole più questa situazione. Se era uscita a fucilare prima di arrestare, meglio. E lo dicono senza vergogna, non è che uno deve intuire, analizzare, parafrasare cosa dicono, eccetera, eccetera. Lo dicono senza vergogna. Non so quando questa legge arriverà alla Knesset, però fa parte delle riforme. Come dicevo prima, i soci di Netanyahu sanno della sua crisi, delle sue difficoltà a mantenere questa coalizione, questo governo, per cui cercano di sfruttare l'occasione. Per quanto riguarda noi, queste linee guida sono già state seguite e le vediamo, riconosciamo l'atteggiamento della polizia. La società israeliana è scesa in piazza, una parte per sostenere le riforme, sostenere Netanyahu, e l'altra parte è contraria alla riforma. E Netanyahu, avendo una parte che sostiene la riforma, andava spedito, però a marzo sono stati dei scioperi pesante, proprio totale, trasporti, fabbriche, proprio il sindacato, l'Istadruta, sindacato principale in Israele, ha dichiarato sciopero, ha invitato tutti allo sciopero generale, è stato un danno enorme all'economia israeliana, e quindi Netanyahu è stato indotto a interrompere e fermare il processo e di discutere con l'opposizione. E secondo me, questo è il mio parere, senza le riforme il suo governo non sopravviverà tanto. Quindi lui è orientato a fare queste riforme perché la benzina necessaria per far andare avanti questo governo. Pertanto è probabile che il processo di rivoluzione, di riforma, ritorni in una corsia preferenziale proprio prossimamente. Non so quanto tempo c'è, io potrei tornare a parlare della situazione degli arabi israeliani più avanti se ci sarà bisogno, e pertanto io vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto e sono qui a vostra disposizione. Mohamed, spero tu mi senta. Volevamo sì. Chiederti una cosa. Noi anche come centro di documentazione tendiamo a sostenere sempre quelli che si oppongono al proprio governo, al proprio capitalismo. Vorremmo sapere, rispetto alle notizie che abbiamo qui in Italia, che sono scarse, e noi abbiamo tradotto qualcosa di questo, non sappiamo il peso che abbiano, forze di ebrei antisionisti come Breaking the Silence, i Refuser, One Democratic Campaign State, cioè tutti quelli dei soldati che si rifiutano di andare nei territori, eccetera, che peso hanno nella società israeliana e se hanno rapporti con militanti e forze di opposizione palestinesi? Sì. Sì, grazie per la domanda. Queste organizzazioni di opposizione, di vera opposizione in Israele, hanno un peso popolare molto limitato. Normalmente l'organizzazione conta una decina di militanti, di operanti, di impiegati, qualcuno anche lo fa per lavoro, però al di fuori dell'organizzazione, degli uffici, non hanno tante persone che le sostengono e le appoggiano e sono concordi con loro. Io personalmente faccio parte di un'organizzazione BIMCOM, organizzazione di architetti e pianificazioni per il diritto alla casa, eccetera, eccetera. Lavoriamo tanto in Cisgiordania e troviamo tanta difficoltà quando vogliamo portiamo avanti un campaign per la solidarietà con qualche villaggio, quando c'è un'operazione di confisca dei terreni, eccetera, eccetera. E di solito sono i soliti 10, 15, 100 persone, non di più. La collaborazione con la parte palestinese c'è all'interno dello Stato di Israele. Vuol dire i palestinesi che sono portatori di cittadinanza israeliana collaborano con queste organizzazioni. Per quanto riguarda le organizzazioni in Cisgiordania, c'è una pressione da parte dell'autorità nazionale palestinese che vuole sapere qualsiasi contatto con componenti israeliani e non sempre questi contatti e questa collaborazione ci riesce. Volevo aggiungere solo una cosa. Il ministro Ben-Gvir è ministro della sicurezza nazionale. Prima il ministero si chiamava sicurezza interna ed era più limitato, adesso è sicurezza nazionale e quindi non è solo la polizia, ma anche si può estendere sulla Costituzione, come diceva Mohammed, di una milizia che si affiancherà alla polizia, milizia costituita da coloni soprattutto. In secondo luogo, i territori occupati sono stati amministrati dal 1967 dalla cosiddetta amministrazione civile dell'esercito, cioè l'amministrazione civile dello Stato occupante è quella dell'esercito. Questa amministrazione civile dell'esercito univa quindi burocrazia e armi, botte e impedimenti. Adesso la situazione è peggiorata. Perché? Perché c'è stato un provvedimento che ha dato la responsabilità del controllo dei territori occupati al ministro delle finanze, che è Bezalel Smotrich, il fascista religioso, terribilmente omofobo, il quale ha non solo il Ministero delle Finanze, ma anche la responsabilità del controllo dell'ordine e della burocrazia nei territori occupati. L'esercito l'ha persa e la situazione quindi per i palestinesi peggiorerà ancora, perché Smotrich è il ministro dei coloni e quindi appoggerà qualsiasi espropriazione di terra, distruzione di casa, allontanamento dai villaggi, allontanamento dai quartieri di città. Quindi la tenaglia, Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, che costruisce anche una ulteriore milizia a parte la polizia, e Smotrich, responsabile della sicurezza nei territori occupati, è una tenaglia espulsiva, una tenaglia terroristica, una tenaglia che stringerà sempre di più ammesso che, come diceva Mohammed, questo governo rimanga in carica. Ma la linea di tendenza della politica israeliana è purtroppo questa. Allora, adesso in attesa verifichiamo se qualcuno dei collegati vuole intervenire, chiedere qualcosa, qualche domanda, oppure se qualcuno qui ha qualche domanda da fare, qualche richiesta. E poi manderemo quella intervista non completa, perché completa dura 35 minuti, abbiamo scelto due domande che riteniamo le più importanti, fatte a Michele Giorgio, corrispondente a Gerusalemme del Manifesto e anche responsabile di Pagine Esteri, direttore di Pagine Esteri, che è un sito interessante. Vieni qua, perché siccome c'è la diretta anche in radio e poi per la registrazione. Devo sedermi? Come vuoi. Allora, una domanda: l'importanza delle comunità ebraiche al di fuori di Israele e in particolar modo della comunità americana. Sembra che in America venga finanziato un forum, in particolar modo di giuristi, che supportino l'operazione dei politici. E che il discorso, sì, della Corte Suprema è importante, lo smantellamento di questa possibilità, di questo organo, di poter contrastare leggi della Knesset. Ma vi siano altri due obiettivi importanti. Uno, la privatizzazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato. E due, intervenire sulle leggi dell'immigrazione, ma non tanto le leggi dell'immigrazione, non so, di quelli che vanno a lavorare lì perché fanno i manovali, vengono, non so, da altri paesi arabi più o meno, ma proprio leggi che regolano l'immigrazione degli stessi israeliani in Israele, e in particolar modo di quegli israeliani che sono sì figli di israeliani all'estero, ma non sono proprio, come si può dire, religiosi. Cioè, quindi limitare l'immigrazione a quei giovani o a quelle persone che dimostrano una certa ortodossia, e facendo anche il calcolo che mentre forse fino a 30 anni fa, 40 anni fa, i più legati all'ortodossia erano gli Ashkenaziti, i cosiddetti ebrei o levantini, che erano i sefarditi, avevano una visione un pochettino più liberale del concetto religioso nello Stato di Israele. In questo momento è trasversale, c'è ortodossia ashkenazita e c'è ortodossia sefardita. Ecco, quella mia domanda è questa. Riusciamo a stabilire quanto queste comunità influenzano e hanno anche influenzato lo Stato Israele? Perché molti di questi sovvenzionano anche, ma non solo, ma anche, per esempio, mi ricordo un episodio dove la comunità internazionale non li aveva più supportati nel discorso dei missili terra-aria, e loro dovettero comprare dei Patriot americani e modificarli. Ecco, secondo me è anche importante, sotto questo punto di vista, valutare quanto queste comunità siano anche contrarie già dall'inizio alla creazione di una Costituzione che imporrebbe una rigidità allo Stato di riferimento. Questo è quello che volevo dire. Ma è una questione molto tecnica e comunque Questa polemica, questa questione si poneva all'inizio e fino a qualche anno fa, ma Israele oggi esiste da 75 anni, è una potenza economica che prima non aveva e di conseguenza è cambiato anche il suo rapporto con le comunità ebraiche. Quanto al controllo del rabbinato, il rabbinato ortodosso di Israele ha sempre voluto e l'ha ottenuto fin dall'inizio il monopolio sul dire chi è ebreo. All'inizio si consentiva di dire che è ebreo anche colui che è figlio di padre ebreo e di madre non ebrea, ma da tempo questo non è più consentito. E di conseguenza tutti i cosiddetti ebrei convertiti o ebrei americani che non seguono il rabbinato ortodosso di Israele o il rabbinato ortodosso degli Stati Uniti, i cosiddetti ebrei riformati o conservatori, sono visti in concorrenza e messi da parte. È una vecchia polemica questa. Comunque Israele è completamente cambiato rispetto a quei tempi, non ha più bisogno di grandi finanziamenti dalle comunità straniere. Ha bisogno certo dell'appoggio politico delle comunità, ma la politica di Israele pone dei problemi alle comunità. Prendiamo l'Italia. In Italia c'è una piccola comunità di ebrei, circa 40.000, ma se l'Italia avesse degli interessi politici e militari contrari a quelli di Israele, mettiti in testa che la comunità ebraica israeliana verrebbe isolata, contenuta e anche perseguitata dal governo, per esempio dal governo Meloni, per dirla, no? Che attualmente sembra il più grande alleato di Netanyahu. Netanyahu è venuto in Italia il 9 marzo e ha fatto degli accordi per il controllo del gas nel Mediterraneo, ma non sto su questo, e soprattutto per lo scambio di armi. Israele e l'Italia in questo momento sono degli innamorati. Perché? Perché Israele e l'Italia conducono una politica di reazione militare nel Mediterraneo. Hanno interessi per il momento comuni, si scambiano segreti e produzioni militari, fanno manovre segrete insieme e soprattutto l'Italia considera Israele, essendo Israele un alleato fermo degli Stati Uniti e l'Italia anche in questo momento, un suo partner. Se però la politica italiana dovesse cambiare, avremmo dei problemi. Quanto alla comunità americana, la comunità americana in questo momento è nel casino più grande, perché è finito il tempo d'oro degli ebrei negli Stati Uniti. È finito e lo si vede con le stragi. Proprio oggi c'è il processo contro l'assassino che ha ucciso diversi ebrei nella sinagoga di Pittsburgh. E gli Stati Uniti hanno bisogno di Israele, ma hanno bisogno di Israele che segua la loro politica, e quindi potranno anche entrare in contrasto con Israele. Poi la situazione sociale americana è così grave che la comunità ebraica americana può essere oggetto anche di attacchi. È finita quella storia di cui tu facevi riferimento e siamo entrati in un nuovo periodo storico che potrà avere degli effetti terribili sia per Israele, che non è detto che tra 50 anni sopravviverà, sia per lo sviluppo dell'antisemitismo in Europa, che sarà terribile. Detto questo, Francesco aveva posto, ne discutevamo, il problema di coloro che rifiutano, no? Di schierarsi, i soldati che non vogliono andare nei territori occupati. Questa è una tendenza che è sempre esistita ed è stata tenuta in piedi da qualche centinaia di elementi dai tempi della guerra del Libano, che fu una guerra che divise il paese. Adesso sono ancora, lo diceva Mohamed Younes, poco numerosi, però la loro presenza c'è. E pone un problema politico, quale debba essere il rapporto tra israeliani e palestinesi. se debbono essere cittadini uguali o cittadini diversi. Questi ragazzi e questi uomini e queste donne dicono che devono essere uguali e pongono quindi un problema politico importantissimo e lo fanno coraggiosamente. Sono scesi in piazza e sono scesi in piazza tra i primi e quindi ciò che sta succedendo in Israele potrà portare anche a un loro protagonismo in futuro. C'è poi un'ultima cosa da dire. È possibile una democrazia vera in Israele, una democrazia borghese, che dica tutti i cittadini sono uguali? Articolo 1 della Costituzione, che tra poco da noi verrà forse rivisto. Tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni di sesso, di etnia, eccetera. In teoria questo sarebbe possibile, ma significherebbe la morte del sionismo. E la morte del sionismo in questo momento, di questo sionismo che crede di essere al massimo della potenza tecnologica e militare, può accadere solo con una guerra, o guerra civile o guerra esterna. E forse succederanno entrambe le cose, perché in questo momento siamo entrati in questa fase. Però la democrazia può risolvere i problemi? A mio parere no, perché l'unico modo di superare e di unire palestinesi e israeliani, ex colonizzatori o colonizzatori e colonizzati, oppressori ed oppressi, è rompere l'oppressione. E per rompere l'oppressione ci vuole un movimento politico avanzato, ci vuole un movimento politico rivoluzionario, ci vuole l'internazionalismo. Finché israeliani e palestinesi si vedranno come nazioni, saranno pronti per il massacro, continueranno il massacro, avremo i Ben Gvir e speriamo di avere coloro che sono contro i Ben Gvir. Quindi si pone il problema dell'internazionalismo e della rivoluzione. Oggi è difficile parlarne perché né in Israele né in Palestina vi sono dei movimenti comunisti o internazionalisti, se non molto limitati o limitatissimi. Ricordiamoci che il sionismo da parte sua è stato un movimento di un anticomunismo e di una controrivoluzione bestiale. Ricordiamoci che l'islamismo, anche il panarabismo, è stato un movimento controrivoluzionario anticomunista. E di conseguenza la prospettiva dell'internazionalismo sembra lontana, ma è l'unica che può rappresentare la via per evitare i massacri e anzi sviluppare le enormi potenzialità sia di Israele sia del Medio Oriente. Ricordiamoci che non siamo più nel 48, non siamo più nel 67, gli stati arabi sono tutti in una situazione terribile e anche essi hanno bisogno di una scossa rivoluzionaria. Senza di questa, gli al-Sisi in Egitto saranno superati e sostituiti da gente peggiore, i petroparassiti rimarranno al potere e potranno continuare a schiavizzare le popolazioni del Bangladesh piuttosto che della Thailandia e fare affari con i capitalisti israeliani e americani. È di questo che dovremmo sperare e dovremmo discutere. C'è qualcuno? E devi venire qua però. Una cosa, i riservisti che attualmente si rifiutano. Sei un po' più vicino al microfono. I riservisti che si rifiutano in questo momento, che sono scesi in piazza e che hanno ufficialmente dichiarato che non andranno a fare, non si arruoleranno alla chiamata alle armi annuale a cui loro vanno, non sono gli stessi. Non sono quelli che si sono rifiutati di entrare. Io mi riferivo solo ai primi. Nei territori occupati, è un'altra categoria di persone. quelli che non entravano nei territori occupati esistono da 40 anni. Esatto. Questi no, questi esistono da 2 mesi. E sono anche alti ufficiali. E sono alti ufficiali e generali, i quali hanno ufficialmente dichiarato che loro non si presenteranno alla prossima chiamata. E questa è una cosa nuovissima, gravissima per lo Stato di Israele, chiaramente, perché è uno Stato che si appoggia sulla forza dei riservisti. Sono diversi da allora, volevo solo precisare questa cosa. Ecco, pian piano posso dire una cosa? Un attimo, Sì, vai. No, volevo dire questo, che mi pare che pian piano stia venendo fuori un quadro un pochino più mosso di ciò che sta succedendo in Israele, meno schematico. A che cosa mi riferisco? Al fatto che se noi raffiguriamo la scesa in campo di centinaia di migliaia di dimostranti esclusivamente, come è stato in un primo momento di questa riunione, come lotta di potere al vertice, c'è qualcosa che non funziona, compagni. Cioè, credo che raffigurarla così si fa vittime del fetichismo della forza di Israele, dello Stato di Israele, mentre è crescentemente evidente lo stato di crisi di questa società, che non può non riflettersi anche, come adesso si diceva, nello stato di tensione delle stesse istituzioni statuali, no? Giustamente si diceva, da 2 mesi che ci sono persino degli alti ufficiali che dicono: io non rispondo alla chiamata che mi è arrivata, e addirittura alcuni bruciano in piazza, pochi naturalmente, sappiamo che sono pochi. Credo che dobbiamo inquadrare il rischio di una guerra civile in Israele, di cui si parla apertamente, e che corrisponde al rischio di una guerra civile negli Stati Uniti d'America, all'interno di un processo di non solo di crisi dell'egemonia dell'Occidente, ma di quel processo che un secolo fa Rosa Luxemburg chiamò di decomposizione, di corrosione che il militarismo produce nelle società. Il militarismo mangia le società, non le compatta, le mangia, le disgrega dall'interno. E allora è vero che Israele fino al 2006 ha vinto quasi tutte le guerre. Nel 2006, quando si è avventurato per terra in Libano, non ha vinto assolutamente. E ora fa solo le operazioni, diciamo, asimmetriche. La strapotenza di Israele è una balla come la strapotenza degli Stati Uniti d'America nel mondo. Io credo che questi processi vadano visti, collegati tra le altre cose, e che noi dobbiamo prendere più sul serio il fatto che questo Stato non riesce più a mantenere una coesione sociale al proprio interno, e che esistono, come dice questa volta l'IMES, un po' più materialista di noi, una serie di tribù all'interno di Israele che si stanno progressivamente allontanando e antagonizzando tra di loro. Perché anche i grandi protettori di Israele, gli Stati Uniti e l'Europa, non sono più in grado di foraggiare lautamente lo Stato di Israele, in quanto sono delle potenze in declino irreversibile. Adesso, scusate, io chiudo, ho già parlato troppo, però per dire che ho l'impressione che dovremmo ragionare un po' di più sulle contraddizioni crescenti a cui Israele deve fare fronte e non, diciamo, essere vittime della rappresentazione di Israele come una superpotenza invincibile. Israele è avviata non da oggi ad un declino irreversibile. Questa è la mia opinione, detta purtroppo in termini apolitici. Pietro, non ho mai avuto fiducia in Caracciolo e nei suoi adepti, e non ce l'ho tuttora. In Israele si sviluppa la lotta di classe, non la lotta tra le tribù, e la crisi istituzionale israeliana può portare anche a contraddizioni, a distruzioni terribili. E questo, le potenze in declino, prima di declinare, le potenze imperialistiche, possono andare anche al disastro proprio e degli altri. Non c'è dubbio. Quindi stiamo quello sempre... che non possono fare è essere più forti quando sono più deboli. Questo è escluso. Sì, vieni. Una sola battuta, Ivo, per me. Questo quadro che fanno Caracciolo e gli altri, di cui come te ho una scarsissima stima per la loro ideologia, ma non per le loro conoscenze, questo scontro tra tribù contiene dentro di sé anche le premesse di una ripresa di uno scontro sociale di classe, che cominciò a manifestarsi nel 2011-2012 con manifestazioni che in Israele mettevano in questione la riduzione della spesa sociale. Non facciamo dibattito, poi ci vediamo e ne parliamo. Ma io avrei voluto da questa riunione maggiori approfondimenti sulle prospettive, sulle dinamiche tra i giovani palestinesi che stanno sfuggendo alle vecchie diciamo organizzazioni affiliate, vuoi ad Hamas a Gaza, vuoi in Cisgiordania ad altre formazioni diciamo più moderate, e che stanno sfuggendo al controllo, a parte di Israele, ma insomma anche al controllo di quelli che li governano, insomma, no? E quindi, per esempio, a Gaza c'era stata la famosa marcia del ritorno, che secondo me era stata una cosa molto importante e che poteva avere degli sviluppi, diciamo, importanti, no? Ecco, volevo, non avendo un quadro, diciamo, sufficientemente nitido di tutta questa galassia e del suo movimento e delle sue prospettive, mi aspettavo che ci fosse una messa a fuoco, diciamo, per quanto possibile più circostanziata. Ecco. L'argomento appena sollevato non è da poco e abbiamo cercato di metterci le mani con difficoltà. Anche nel materiale che abbiamo pubblicato sul sito c'è qualcosina su questa cosa. È uscito, ad esempio, sempre stiamo evocando l'IMES, un articolo di De Giovannangeli che abbiamo citato, non abbiamo potuto mettere perché sennò c'erano i diritti d'autore, succedeva più di mondo, che sostiene senza mezzi termini che Hamas da un lato e Fatah ANP dall'altro in questo momento stiano vivendo una crisi enorme di consenso sociale. Ci fossero delle elezioni, vincerebbero sulla base di un'astensione amplissima e che avrebbero risultato da questa cosa qua. che forse fondamentali escono da altre cose. Primi sono i leoni di Nablus, che sono quella forza paramilitare che esiste a Nablus e a Jenin e che è stato oggetto di un grossissimo attacco il 28 febbraio dell'esercito israeliano, perché sembra che abbiano una base di massa enorme. Questa è l'interpretazione che ci dà De Giovannangeli, se lo volete leggere. Se avete la pazienza di andare ad ascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Michele Giorgio, lui non la dice proprio così e dice che in questa situazione è vero che ci sono dei problemi e ci sono dei grossi problemi dalla NP che sono collegati al fatto che finiscono i fondi, che inspiegabilmente hanno annullato le elezioni, eccetera. Gaza ne ha degli altri, l'Hamas. Hamas governa, però Hamas è una forza che ha un grossissimo ricambio nel suo gruppo dirigente, a parte i massimi esponenti, e che è legato in certo modo, esiste una posizione islamista ancora all'interno di questa situazione. Quindi si tratta di capire veramente come stanno le cose. Il punto centrale, penso, che ci raccordi a questa faccenda di cui stiamo discutendo è che anche, seppur in termini diversi, nel campo palestinese stanno iniziando a fare i conti con la questione due popoli, due stati, uno stato solo, e intendo non uno stato solo come era quello di una volta, si diceva rimandiamo gli ebrei a mare degli anni 60, è che nella concretezza l'ipotesi reazionaria dei due popoli, due stati degli accordi di Oslo è stata bruciata dagli insediamenti, dai fatti che hanno distrutto qualunque tipo di territorio. E oggi gli ebrei antisionisti e i palestinesi devono discutere e confrontarsi e darsi delle soluzioni su un unico Stato. Su un nodo fondamentale, secondo me, al di là di tutte quante le problematiche politiche che ci sono, c'è questa piccola organizzazione One Democratic State Campaign che avrà peso limitatissimo, ha grosse illusioni su una possibilità democratica di evoluzione di Israele, ma va a un nodo fondamentale che è quello per tutti in questa fase, che va a unificare: o si pone il diritto al ritorno di tutti i palestinesi di qualunque generazione in Israele, o stiamo parlando del nulla in questa situazione. E o ci si fa una discussione su questo tra israeliani e palestinesi, o il discorso non va avanti e ci sarà repressione, guerra e cose del genere. Lo dice una piccola forza, ma dice anche a noi qual è il cuore reale del problema: di fronte alla distruzione del territorio, ai pogrom che sono in corso, o poni questo problema e poni l'annullamento di quello che esiste, ma sarà una rivoluzione sociale a farlo. Poi c'è da dire, scusa Daniela, il punto è questo: da quanti anni c'è l'occupazione? Da 60 anni. Quante generazioni ci sono state? Almeno 4, dato che si riproducono molto presto. Non solo, da quanto tempo c'è l'autorità palestinese? Da 30 anni. Che cos'è l'autorità palestinese? E lo scrivono tutti e lo sanno tutti. Una polizia al servizio di Israele. Cosa fa Israele? Domina completamente l'economia della Cisgiordania. Cisgiordania non entra e non esce nulla. Quindi queste generazioni, quelle attuali, hanno fatto l'esperienza, non l'hanno fatta loro, ma hanno avuto l'esperienza storica della prima, dell'occupazione dal 67, della prima intifada 87-93, della costituzione dell'autorità nazionale palestinese 94, della seconda intifada 2000-2005, hanno visto lo sviluppo di tutte le forze politiche, quindi sono loro che devono organizzarsi e lo fanno malgrado tutto. Non sappiamo le forme perché non abbiamo rapporti diretti, però il governo israeliano lo sa benissimo, e difatti io vi ho detto che dal 2022, da marzo 2022 se non sbaglio, da maggio, c'è in corso un'operazione militare. Israele li va a prendere casa per casa. Questa è l'esperienza della gioventù palestinese. Dunque, o muoiono o combattono per sopravvivere e devono darsi una prospettiva politica di cui Francesco ha cominciato a parlare. Ma il problema non è solo in Cisgiordania, il problema adesso è anche in Israele. E se tocca gli arabi cosiddetti israeliani, tocca anche i palestinesi. E se tocca gli arabi israeliani, tocca anche i poveri israeliani, che fino ad ora hanno attaccato, sono stati nemici degli arabi perché hanno ottenuto dei vantaggi, colonie o qualcosa, e comunque lo sfruttato, se ha qualcuno che sta peggio di lui, lo attacca. Lo sappiamo qual è l'esperienza del proletariato bianco contro il proletariato nero negli Stati Uniti e qual è l'esperienza del proletariato inglese contro il proletariato irlandese 100 anni fa. Ma ormai siamo in una situazione in cui tutte queste componenti giovanili e popolari sono poste una in fianco all'altro, e nella crisi dello Stato israeliano di cui abbiamo parlato non possono fare altro che sviluppare la ribellione, subire la repressione e cercare di organizzarsi per combatterla meglio insieme. Non c'è altra via, se no verranno tutti eliminati, i capi e anche i ribelli, come sta facendo lo Stato israeliano, al di là delle differenze tra cosiddetti democratici e cosiddetti fascisti. L'hanno fatto, e l'ha fatto il governo Lapid, il piano che è in corso sotto Netanyahu. Vorrei solo girare la domanda a Mohamed Younis, che è collegato, perché mi interessa, lui vive contatto diretto nella parte ad Haifa, quindi è un arabo che vive nello Stato di Israele e ha contatti anche con tutti i compagni che stanno nella parte in Cisgiordania. Quindi, visto che adesso abbiamo aperto questo discorso, mi interessa anche sapere lui la sua analisi da questo punto di vista sul dibattito reale che c'è tra le varie componenti. Non ho capito quale componente, palestinese? Sì, all'interno dell'ambito palestinese, ovviamente. Adesso lasciamo a parte la vicenda israeliana e ebraica. Proprio tu come la vedi, che sei un po' più sul pezzo, insomma, hai delle notizie anche un po' più aggiornate delle nostre, lo vivi quotidianamente e so che ci rifletti da anni su queste vicende, quindi... A dire la verità, io non sono ottimista, perché spesso a Ramallah e anche a Nablus ogni tanto vado lì e sento la gente, e non hanno una prospettiva di cambiamento a livello di leadership nel movimento di Al-Fatah, per esempio. Non vedo un cambio di generazione, una generazione che propone qualcosa di innovativo, lettura della realtà che è diversa. Anzi, io sento spesso gli stessi slogan degli anni 70, come se fossimo ancora nel Libano o in Giordania all'inizio della nascita dell'OLP. I soldi che i paesi arabi hanno con i quali i paesi arabi hanno sostenuto l'autorità nazionale palestinese, hanno formato una grande comunità di gente che vive dall'esistenza dell'autorità nazionale palestinese, perché lavorano, perché sono impiegati, perché hanno una risorsa per vivere e non sono disposte a lottare, a cambiare quella diciamo quella leadership di Al-Fatah che esiste oggi. Si è parlato dei leoni di Nablus e di Jenin. Questa in pratica è una base popolare giovane giovani disperati che hanno perso la fiducia nella leadership tradizionale dei movimenti che sono stati creati negli anni 70, Fronte Popolare, Fronte Democratico, Al-Fatah, eccetera, eccetera. Però, a mio parere, che da quello che vedo, non hanno ancora una visione per il futuro, non hanno ancora proposto una visione, una prospettiva, non riescono a suggerire o a dare una prospettiva o una strategia che la gente può seguire. Quindi io non la vedo così tanta rosa, insomma, la strada dei giovani palestinesi. Credo è qualcosa di fisiologico, insomma, con la fine del governo di Abu Mazen, che in pratica siamo ai titoli di coda, un po' perché è malato, un po' perché è vecchio, un po' perché al-Fatah ultimamente c'è una lotta interna per succedere a Abu Mazen. Credo fino a quel momento non succederà niente, insomma. C'è una totale anche divisione tra la Cisgiordania sotto controllo di Al-Fatah, Gaza sotto controllo di Hamas, e entrambi impediscono a qualsiasi forma di protesta, di alternativa, di crescere, insomma. Anche loro, come si diceva prima, l'autorità nazionale palestinese è una specie di polizia che opera per conto di Israele, quindi opprime qualsiasi prospettiva o iniziativa giovanile. Vedo anche quando ci sono elezioni, per una cosa che non dice niente per gli italiani, però quando ci sono elezioni per i comitati degli studenti all'università di Birzeit, all'università di An-Najah, Nablus, eccetera, eccetera, e vede che in pratica vengono riciclati gli stessi modelli degli anni passati e non vengono proposti modelli nuovi. Si è parlato prima del movimento One State, e non riesce, questo movimento non riesce a filtrare, ad entrare a livello di discussione popolare in Cisgiordania. Sono circoli esclusivi di pochissime persone che ne parlano, però a livello popolare non sento discussioni, per esempio, è finita la proposta di due stati per due popoli. Oslo non funziona e non è attuale, e cerchiamo di proporre qualcosa, non la sento dire. C'è qualcun altro? Se non c'è nessuno, sia tra i collegati o tra quelli in sala, volevo far sentire quel breve estratto di Michele Giorgio. Di Michele Giorgio,